La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, eccoci qui all'ora settimanale di cinema nel weekend di Radio 24. Una settimana con uscite copiose, devo dire, ancora una volta insomma la stagione cinematografica è entrata nel vivo e quindi arrivano parecchi film. Ne abbiamo selezionati quattro di cui parlare, di cui occuparci, su cui focalizzare la nostra attenzione, ma è anche la settimana della festa, anzi del festival ormai, del cinema di Roma, di tante altre novità. Abbiamo condensato, come sempre, i contenuti della nostra puntata nei titoli di testa. Maschi contro femmine. L'eterna battaglia sbarca al cinema. Una commedia con un supercast che va da Fabio De Luigi a Claudio Bisio, da Paola Cortellesi a Luciana Littizzetto, per riscoprire che la guerra dei sessi non è mai finita. Un film con Jacques Tati senza Jacques Tati. È L'illusionista di Sylvain Chomet, noto per Appuntamento a Belleville. Da una sceneggiatura del grande maestro della comicità surreale francese, una storia d'amore paterno, delicata come i colori pastello del film. È un Gérard Depardieu mattatore il protagonista di Mammut, una vita spesa in un salumificio e una pensione dedicata a ritrovare i suoi contributi e un po' di se stesso. Dirige la coppia Delpin de Kervern, che nel 2008 si affermò con Louise Michel. Non ci resta che piangere 26 anni dopo, per la prima volta in Blu-ray, il film che fece ridere l'Italia degli anni 80, con numerosi contenuti speciali e 41 minuti mai visti, per tornare a ridere con la coppia comica Doc Benigni Troisi. E allora questo è non solo nel menù della Rosa Purpurea di questa settimana. Cominciamo ridendo perché se una sfida può arrivare al mattatore degli incassi, ovvero Benvenuti al Sud, come vedremo fra poco nelle classifiche, un risultato altro che natalizio per questo film che è davvero il campione di incassi di questa prima parte della stagione. Ebbene, dicevo, se un'insidia può arrivare per questo film, arriva da un altro film italiano, da un altro film con cast collettivo, corale e anche abbastanza comico. Si intitola Maschi contro femmine, l'ha visto per noi Barbara Righini. Lo vedi questo cosino che hai tra le gambe? Questo sarà la causa di tutti i tuoi problemi, tutti. Ma che faccio, provi? Ma sei scemo? Maschilista porco. Tricchettona frigida. Eh sì, i rapporti fra maschi e femmine sono complicati. Gli uomini hanno in mente solo una cosa e le donne parlano un'altra lingua. Fausto Brizzi, mago del box office, non scopre niente di nuovo. Come con Ex, il regista romano confeziona un film corale che può vantare una sceneggiatura ben calibrata e un cast di attori molto riconoscibili fra protagonisti e camei. E allora ci sono Walter e Monica, Fabio De Luigi e Lucia Ocone, che sono appena diventati genitori e non fanno sesso da un anno. Difficile resistere alle avance di una professionista della pallavolo, alta, statuaria e molto provocante. Per complicarti la vita ti sei andato in pelagare con una tua giocatrice. Girato in pelagare, per una bottarella sola in pelagare. Quante volte? 12. C'è Carla Signoris in piena crisi di mezza età. Il suo personaggio, Nicoletta, è fortemente tentato dalla chirurgia estetica. E poi ci sono Alessandro Preziosi e Paola Cortellesi. Lui, Diego, è un playboy che colleziona perizoma. Lei, un'infermiera super impegnata nel campo dell'ambientalismo. Ma si sa, gli opposti si attraggono. Io penso che il tuo pisello sia andato in pensione anticipata. Per sbloccarti non devi andare a letto con una qualsiasi. Devi andare a letto con lei. Senti, ti prego, dammi un'altra chance di dimostrarti che non sono un coglione. Mi chiede l'impossibile. Brizzi compone un puzzle attentamente studiato che si completerà a San Valentino quando uscirà Femmine contro maschi, il film gemello nel quale le donne si prenderanno la rivincita. In questo primo capitolo, infatti, i maschi non fanno una bella figura, materiali, insensibili, confusi, spietati. Le donne sono vittime, ma hanno maggiore spessore e forza. Il lungo curriculum di Brizzi come autore per i film di Natale di Neri Parenti si fa sentire con una evidente matematica delle battute. Il regista però evita la volgarità, pur lasciandosi andare a volte a qualche doppio senso. Brillano Carla Signoris e Fabio De Luigi. My sunny girl. E allora questo è il racconto di Maschi contro Femmine da Barbara Righini. Noi andiamo a dare un'occhiata proprio a quella classifica che potrebbe essere, diciamo così, modificata, non penso sinceramente sconvolta, ma modificata dalla presenza di questo film nelle sale, classifica italiana che la scorsa settimana vedeva ancora il trionfo per la quarta settimana consecutiva, praticamente tutto il mese di ottobre, primo in classifica c'è stato Benvenuti al Sud di Luca Miniero. Questo apre anche una riflessione, perché io per primo, lo ammetto, presentando il film un mese fa, avevo detto, insomma, un'operazione che sì, certo, avrà il suo successo, perché ce l'avrà, però tutto sommato si era già visto il film originale francese e poi, insomma, quale terreno avrebbe trovato questo film in Italia. Ebbene, il terreno l'ha trovato, non c'è niente da dire. Evidentemente ormai la pellicola in Italia ha avuto lo stesso successo che quella francese ha avuto in Francia, e questo ci fa pensare, ci fa capire anche come evidentemente tutti abbiamo un sud, no? Con il quale poi scherzare, divertirci, anche perché dove c'è il sud c'è anche un nord con il quale scherzare e divertirci, e che probabilmente questo format, cioè la diversità geografica che diventa diversità sociale, ma diventa anche capacità poi di incontrarsi e di sapere, sarà banale dirlo, ma insomma che tutto sommato si può stare insieme ugualmente, bene, questa cosa, questo format quasi, potrebbe essere trasferito in qualsiasi paese. Chissà che non partano versioni filippine, thailandesi e russe, tanto per citare alcuni stati, di questo film, che per il momento in Italia continua ad avere un successo clamoroso. Pensate, lo scorso fine settimana, solo nel weekend, ha incassato altri 3 milioni di euro, cioè continua a 3 milioni di euro a weekend dopo un mese di programmazione. 20 milioni, quasi 21, questi sono dati riferiti a domenica scorsa, quasi 21 milioni di incasso globale, si avvia ormai verso i 30 ed è davvero un successo clamoroso. Questo per Benvenuti al Sud. Dietro c'è Cattivissimo Me, che sta andando molto forte, è arrivato a 7 milioni di incasso ed è appunto secondo. Terzo posto per Wall Street, Il denaro non dorme mai, che era una new entry, primo weekend di uscita, 1.106.000 euro per il film di Oliver Stone. E poi ancora Paranormal Activity, che ha fatto poco meno, 4.000 euro in meno, qui c'è tutto il pubblico degli horror, degli adolescenti, che ovviamente lo ha sposato. Seguono ancora Step Up 3D, Figli delle Stelle di Pellegrini, qui invece andamento lento, l'avevamo presentato la scorsa settimana questo film di Lucio Pellegrini, forse anche qui schiacciato da un pubblico che è andato a riversarsi in massa su Benvenuti al Sud, e forse far uscire così ravvicinati adesso Figli delle Stelle e adesso anche Maschi contro Femmine potrebbe essere anche un po' controproducente, proprio per la forza che sta dimostrando il film primo in classifica di Luca Miniero. Seconda parte della Rosa Purpurea sulle note di una canzone che fa parte della colonna sonora del film Il Regno di Gaul, La leggenda dei guardiani, questo è il titolo di questo primo, questo che può essere il primo capitolo di una potenziale saga, ci risiamo, saga letteraria, l'ennesima, ben 15 libri, mamma mia, dal 2002 al 2008, 15 libri di gufi, bisogna avere anche una certa complicità per poterli gestire, firmata da una naturalista, non poteva che essere così, Catherine Lasky, segno che il cinema dopo Il Signore degli Anelli e Harry Potter, che sono ormai, come dire, quasi perduti, quasi, perché Harry Potter dobbiamo ancora vederne un paio di situazioni, ma insomma poi è finita anche lì, e dati gli insuccessi di Percy Jackson e la vita breve, se vogliamo, anche dello stesso Narnia, che non è che poi abbia spaccato come si pensava, ebbene il cinema continua a cercare le saghe per poter attaccare, fidelizzare un pubblico e portarselo in giro per gli anni con incassi importanti. Ci si prova con i gufi, questa volta poi c'è il 3D, che però, almeno questo lo dico per esperienza, almeno personale, nella proiezione stampa a cui abbiamo assistito è davvero brutto e fastidioso, con aloni bianchi che si vedono doppi intorno alle figure, insomma erano occhialini di quelli di vecchia generazione, speriamo che nelle sale dove venne proiettato il film ci siano invece quelli di nuova generazione attivi, che hanno sicuramente una qualità diversa. Ma insomma, questo è un po' il cappello per parlare di questo Gaul. La leggenda narra di un manipolo di nobili guerrieri noti come i guardiani di Kabul. Quando una calamità incombe, cercali, poiché essi hanno giurato di proteggere gli innocenti e sconfiggere il male. Devo smettere? Cosa? No! No? Questa è la parte che preferisco! Soren, e poi che accade? Poi Lyse sferra il colpo finale. I guardiani vincono, la la la la, se ne vanno a casa, fine. Pensa a qualcosa di reale. Loro sono reali. E allora, l'avete capito, la storia di una famiglia di gufi in un regno tutto di gufi, di collocazione vagamente gaelico-irlandese, diviso in caste, in cui ci sono due fratelli assai diversi, Soren, idealista e sognatore, e Clad, cinico e opportunista. Caduti dal nido verranno adottati il primo dai buoni guardiani del regno e il secondo dai cattivi, i puri, gufacci nel metto di ferro che nel loro mito della razza eletta, quella dei Barbagianni, ricordano un esercito nazista. Ovviamente i due fratelli si ritroveranno in battaglia l'uno contro l'altro. Il regista è di quelli di razza del nuovo cinema di intrattenimento giovanile, non solo. Dopo aver portato sul grande schermo graphic novel come 300 e Watchmen, Zack Snyder non poteva che passare all'animazione pura, che è poi forse la cosa migliore di questo film. Insieme alle musiche che stiamo ascoltando, veder volare questi gufi di Gaul sembra davvero una questione naturale. Si tocca quasi la morbidezza del loro piumaggio, tanto è veritiera l'animazione digitale. La storia invece è già vista. Anche in tempi recenti, il classico film di formazione con il gufetto che impara a volare e che grazie ai compagni di viaggio saggi e giusti diventa adulto e un coraggioso leader. Non mancano però elementi di originalità, va detto, come la mancata redenzione del fratello cattivo, almeno in questo primo capitolo, e un intenso senso epico che pervade tutto il film. E questo era Gaul, I Guardiani del Regno, il primo film di questa potenziale saga. Noi cominciamo a giocare insieme questa settimana ancora in Blu-ray, ancora in alta definizione e con tre tracce che abbiamo cercato di rendere il più, diciamo, il meno facili possibile. Ecco, perché si tratta di un film di grande popolarità, però dovete essere degli appassionati per scoprirlo da pochi secondi. Che noi vi trasmetteremo. Allora, cominciamo con questi primi 10 secondi misteriosi. Guardate un po' che cosa è entrato da quella porta. Ehi, non sapevo ci fosse il circo in città. Deve aver preso quella camicia a qualche cinese morto. E allora questa era la prima clip, vi ricordo, dovete indovinare di che film si tratta e scriverlo alla rosapurpure@radio24.it. Come sempre la preghiera è quella di inserire anche già il vostro indirizzo, perché questo in caso di vittoria, che ovviamente premierà il più bravo e veloce del sabato e della domenica, non ne abbiamo una quantità infinita, ma insomma agevolerà anche le operazioni di spedizione. Più tardi, un'altra possibilità. Una musica vagamente francese, di sapore transalpino, anche se poi il film di cui stiamo per parlare è ambientato in gran parte in Scozia. Ma la Francia c'entra e come, perché parliamo dell'illusionista, parliamo di un progetto targato e addirittura firmato Jacques Tati, uno dei più grandi maestri di un cinema mimico, colorato, surreale, che ha firmato capolavori immortali come Le vacanze di Monsieur Hulot oppure Mon Oncle. Ebbene, all'inizio degli anni 50 il grande Jacques Tati scrisse una sceneggiatura. Voleva fare un film su un vecchio mago, un mago da coniglio nel cilindro, per intenderci, in grado di strappare applausi a buon mercato negli spettacoli di vaudeville, che improvvisamente, questo mago, si sente superato dall'avvento di nuove forme di spettacolo, come per esempio i concerti beat. Un po' il trait d'union col suo personaggio, il personaggio interpretato, il Monsieur Hulot proprio di Jacques Tati, sempre un po' in affanno con i tempi moderni. Nacque così il copione dell'illusionista. Ma quel progetto, per varie vicissitudini, rimase solo sulla carta. Jacques Tati realizzò prima Playtime, il suo capolavoro più celebrato, che con quel progetto, come vedremo, ha più di un punto di contatto. Passe une nuit dans les coulisses d'un extraordinaire où 40 anni dopo, Sylvain Chomet, che nel 2003 si affermò in tutto il mondo con la Triplette de Belleville, in Italia uscì con il titolo di Appuntamento a Belleville, ha tirato fuori dagli scaffali della Cinémathèque Française quello script e ha deciso di realizzarlo, facendo cartone di ciò che Tati aveva concepito come film in carne e ossa. In realtà tutto cominciò nel 2003, quando Chomet incontrò Sophie Tati-Chef, la figlia di Jacques Tati, che dopo aver visto la Triplette de Belleville gli disse: solo tu puoi realizzare questo film veramente come avrebbe fatto mio padre. Sophie purtroppo poi se n'è andata, ci ha lasciato, e questo progetto è stato portato in porto con grande forza e con grande convinzione da Sylvain Chomet. E allora il protagonista dell'Illusioniste è un mago in tutto e per tutto simile a Jacques Tati. Si comincia proprio da qua. Il protagonista di questo film è in un certo senso Jacques Tati, che si muove come lui, con quel misto di pudore, di tenerezza, nei teatri di provincia dove i suoi giochi di prestigio attirano tutto al più gli applausi di qualche nonna con nipotino, non certo le masse dei divi del rock and roll. E allora l'illusionista parte per la Scozia, esibendosi nei pub, abitando in una stamberga, ma è lì che conosce Alice, la figlia dell'oste, che prende sotto la sua ala come una figlia. Insieme salperanno per Edimburgo, la grande città, per continuare a credere all'illusione della vita. Sylvain Chomet vince almeno due scommesse con questo film, L'Illusionista. Da una parte fare un film con Tati senza Tati, e non sembri un gioco di parole. E dall'altra fare a meno del 3D, che al giorno d'oggi, quando si parla di cinema d'animazione, equivale un po' al bollino di Eretico. L'Illusionista è una riflessione su un mondo alla soglia di una rivoluzione. Il film è ambientato più o meno alla fine degli anni 60. Un mondo che dice addio alla libertà artistica un po' naif e corre a braccia aperte incontro alla grande illusione, forse alla grande delusione, del consumismo. Eccolo il paragone con Playtime. Anche lì il personaggio interpretato da Tati faceva i conti con una modernità che non capiva, ma dalla quale si faceva cullare come in un grande Luna Park. Qui il risvolto è un po' più amaro, ma la sostanza del rapporto con il nuovo che avanza non cambia. Quanto allo stile, l'animazione di Sylvain Chomet è fatta di tratti essenziali e tinte pastello più vicina al fumetto d'autore che alla plastica tridimensionalità imposta dal mainstream, dimostra che non servono occhialini in 3D quando si ha una poetica e qualcosa da raccontare. Primo giorno di pensione ed è già l'anarchia. Lo sai, ti spaccherei quella faccia da lavativo se non ci fosse qui mia moglie. Coglione! Ti farei ingoiare quel berrettino ridicolo. Coglione! Non sai fare la spesa, non sai telefonare, non sai aggiustare niente. Devi fare qualcosa, Serge. Terza parte della Rosa Purpurea. Abbiamo subito ascoltato un estratto dal trailer di Mammut, il film che riporta sugli schermi italiani Gérard Depardieu in veste di grande protagonista. Peraltro sta per arrivare anche Potiche, un altro film con Depardieu, che quindi avrà una doppia esposizione per quanto riguarda le sale cinematografiche italiane. Dicevamo Mammut, avete sentito, un uomo che arriva appunto alla pensione e la moglie lo accusa: non hai mai saputo far niente. Fin lì la vita di Serge Pilardos non aveva riservato grandi sorprese. Da anni lavorava per lo stesso salumificio, squartava maiali, preparava prosciutti. Giunto alla soglia dei 60 anni, per Serge, soprannominato Mammut non solo per la stazza esagerata, ma anche per la grossa moto, appunto una Munch Mammut che cavalcava in gioventù, si dischiudono le porte della pensione, che per chi ha lavorato ogni giorno della sua vita è una condizione piena di incognite. D'improvviso, costretto in casa, succube della moglie, Mammut passa il tempo spaesato fra i piccoli lavoretti domestici e la spesa al supermercato. Ma all'ufficio pensioni arriva la brutta sorpresa: per ottenere il vitalizio mancano diversi contributi che alcuni ex datori di lavoro si sono, diciamo così, dimenticati di versare. Per Serge c'è una sola possibilità: inforcare di nuovo la sua vecchia Mammut e ripercorrere le strade del suo lavoro che coincidono con quelle della sua vita, per ritrovare la pensione e quel che non conosceva più di se stesso. Rimani te stesso. Sono loro gli stronzi e mi vergogno. Non farti fregare. È bello anche non fare niente. Quasi mai ho avuto l'occasione di stare senza fare niente. Due anni dopo Louise Michel, la coppia di registi formata da Benoît Delepine e Gustave Kevern vira su una comicità sempre surreale, ma un po' meno legata ai singoli sketch. In Mammut c'è un ragionamento importante sull'identificazione fra uomo e lavoro, su quel che l'alienante macchina della produzione ci fa perdere giorno per giorno della nostra vita e su come per potersi ritrovare bisogna spesso perdere tutto quel che si ha. Il viaggio in moto di Serge Pilardos è la metafora della risalita del fiume della nostra vita. È capitato a tutti di trovare un vecchio calendario, una vecchia agenda piena di appunti e di ripiombare immediatamente in una quotidianità dimenticata e che pure all'epoca pervadeva la nostra esistenza. Oppure provate a prendere in mano il vostro curriculum lavorativo e ad immaginare di andare, sarebbe bello farlo, in tutti quei luoghi, quegli uffici, da quelle persone che hanno incrociato i vostri giorni. Forse è il modo migliore per sapere cosa siamo diventati. Ebbene, questo è il percorso di questo film, riportare il suo protagonista, un Gérard Depardieu sincero e intenso ai limiti del commovente, nei luoghi e nelle situazioni che avevano punteggiato il suo passato e che erano svaniti appena la vita aveva proposto altri programmi. Geniali le scelte di casting, dal ruolo di Yolande Moreau, la moglie di Mammut, cui sono affidate le migliori battute del film, alla presenza di Isabella Jani, presenza è la parola giusta visto che si tratta di un fantasma nel film, e di Anna Muglalis, una falsa handicappata che si rivelerà una sexy rapinatrice. Nonostante qualche passaggio scontato e qualche forzatura, la mano di Delepine e Kevern è davvero piena di visioni artistiche, a partire dal supporto, una pellicola 18 mm poi tirata a 35 per un effetto sgranato e molto ruvido, o le inquadrature sfocate, magistrale quella iniziale, lunga camera car sulle vigne della campagna francese, che donano al film un alito poetico che fa da contraltare alle situazioni tragicomiche proposte. Questo era Mammut, un'altra delle fra le novità, le tante novità cinematografiche del weekend, appunto in questo fine settimana. Noi a questo punto andiamo e torniamo, anzi a giocare con il DVD game, con il Blu-ray game per essere precisi, alta definizione anche questa settimana nel nostro gioco, per provare a vincere il film di cui vi stiamo parlando, il film che vi stiamo proponendo. Dovete capire questa clip, ascoltate. Chi pagherà i tuoi vestiti, eh? E i tuoi gioielli? E il tuo whisky? Chi pagherà l'intervento di chirurgia plastica? Sei stato tu a volere che avessi queste cose! Speriamo di essere stati abbastanza cattivi, perché qui il premio è importante. La Rosa Purpurea @radio24.it, se avete indovinato di che film si tratta e volete provare a vincere appunto questo Blu-ray, noi più tardi avremo un'altra possibilità. E a questo punto noi abbandoniamo l'attualità cinematografica in sala, le novità al cinema, per parlare di un altro tipo di attualità, quella festivaliera, perché come tutti saprete è in corso di svolgimento il Festival Internazionale del Film di Roma, che sta raccontando sulle frequenze di Radio 24 la nostra Marta Cagnola, che è in collegamento con noi. Ciao Marta! Buonasera, eccoci qua da Roma. Ciao Marta, allora tutto bene? Com'è cominciato questo festival? Beh, è cominciato partendo veramente forte, una partenza col botto, ma non una partenza cinematografica, non c'è stata una grande star o un grande film, ma una forte protesta, la protesta del red carpet, l'invasione del red carpet da parte del mondo del cinema italiano. C'erano veramente tante persone, tra personaggi di spicco, attori noti, registi e tutti coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo. Per quale ragione? Per protestare contro i tagli del Ministero, anche se poi, dobbiamo dirlo, il giorno prima era stato annunciato che il FUS sarebbe stato reintegrato e che i tax credit e i tax shelter, che non sono due parolacce, ma sono dei benefici fiscali, quindi qualcosa di molto importante per il cinema, beh, insomma, buone notizie. Che però non hanno convinto del tutto il mondo dello spettacolo, quindi la protesta è stata confermata. Cosa c'è stato? Un'invasione del red carpet, e il red carpet, diciamo, uno dei pochi momenti glamour previsti da questo festival, cioè il red carpet di Keira Knightley e Eva Mendes, non c'è stato. E tra l'altro devo dire che vedere nelle immagini televisive Keira Knightley e Eva Mendes in tiro da gran soirée, ovviamente, lì così erano un po' spaesate, Marta, sembrava volessero in qualche modo empatizzare con i poveri attori italiani che protestavano, però erano un po' ingessate in quel momento. Sì, in realtà si sono fatte vedere per qualche istante, per solidarietà, hanno detto loro, senza anche probabilmente capire davvero i motivi della protesta, ma insomma c'erano, e si sono fatte vedere un secondo, molti flash, e poi imbarazzate se ne sono tornate. Se sono andate, esatto, hanno fatto il loro mestiere. Senti Marta, però parliamo di cinema. All'inizio, alla vigilia insomma di questo festival, si è detto forse una quinta edizione con non molte star, con film che tutto sommato nel giro di poche settimane sarebbero usciti, insomma hai dai primi film che hai visto questa sensazione, anche se bisogna ricordare che poi i festival sono fatti così e sono fatti anche per quello, sono fatti anche per far vedere prima i film che poi usciranno, ma qual è la tua sensazione sotto il profilo del sapore cinematografico? Allora, intanto ti dico che io sono favorevolissima al fatto che i film escano presto, perché è solo per i critici la soddisfazione di vederle molto prima degli altri, invece per il pubblico è bello che se ne senta parlare, ad esempio che se ne senta parlare in radio, e poi poterli andare a vedere presto al cinema. Questo invece secondo me potrebbe essere un ottimo volano, quello di un festival, per un film che possa uscire in tempi ragionevoli. Per quanto riguarda diciamo il fatto che non c'è né tanto glamour né tanti film di spicco, non dobbiamo dimenticare che siamo in periodi di grande crisi, non solo per finanziare un festival ma anche per finanziare film, quindi insomma il periodo è molto difficile. E poi c'è anche una particolarità del Festival Internazionale del Film di Roma, ma non solo, il fatto che ci siano delle sezioni secondarie con dei film da scoprire, dei gioiellini, come sempre nella sezione extra, ma anche nella sezione Alice nella città, che è quella dedicata ai ragazzi, insomma, ai più giovani. E allora Marta, facciamo così, visto che chiaramente questo nostro primo collegamento qui alla Rosa Purpurea verte su una porzione di festival davvero minima che tu hai potuto osservare, noi ti rimandiamo alla prossima settimana, quando invece magari ci tirerei fuori due o tre film che vale la pena davvero segnarsi sul taccuino per poi seguirli quando arriveranno nelle sale, sperando che ci arrivino ovviamente. Grazie Marta, appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima settimana. E allora grazie, un saluto anche a Marta Cagnola, che ci racconterà anche la prossima settimana un po' così le suggestioni del Festival Internazionale del Film di Roma. A questo punto noi andiamo con le novità in America invece, perché torna una nostra amatissima e apprezzatissima rubrica come Trailer USA, che vi fa sentire in anteprima o quasi i suoni originali dei nuovi film americani. Il nostro appuntamento oggi verte su un film che si intitola Never Let Me Go e ha appena inaugurato il London Film Festival, che si svolge poco prima del Festival Romano. Nel cast Charlotte Rampling, Keira Knightley, anche qua tornate a recitare insieme dopo Orgoglio e Pregiudizio, ma noi abbiamo chiesto alla nostra Micaela Bellisario di raccontarci un po' questo Never Let Me Go. Ciao Micaela. Sì, ciao Franco, grazie. Dunque, Never Let Me Go, per cominciare, è stato accolto molto bene a Londra, dove la premiere è stata affollatissima. Il film è un fantathriller drammatico sul senso dell'esistenza e su cosa ci possa rendere umani o farci definire tali. Non voglio spaventare nessuno, perché anzi il film è un crescendo di emozioni. La storia è questa: sullo sfondo di quello che appare un idilliaco e tipico college inglese, isolato da tutto e da tutti, crescono tre amici: Katie, Tommy e Ruth. Anni dopo, Katie ricorderà quei momenti e il film si apre proprio con la sua dolorosa nostalgia, come si può sentire in questo primo passo del trailer. My name is Kathy H. I'm 28 years old. I now spend most of my time not looking forwards, but looking back and what happened to us at Hailsham. Ecco, attraverso il suo racconto in un flashback, Katie racconta la loro storia. I tre ragazzi anni prima avevano scoperto di essere in pratica dei cloni, sì, proprio dei cloni, cioè erano stati allevati specificatamente per poi donare i propri organi con una prospettiva di vita piuttosto breve. La scoperta era avvenuta durante l'adolescenza, una rivelazione esplosiva, tanto che i tre amici a un certo punto del film riescono, sopravvissuti, finalmente dopo tanti anni a vedere e a raccontarsi questi oscuri segreti, perché ognuno di loro poi ha vissuto una sua odissea. In questo passo del trailer, in questo secondo passo del trailer, ascolterete una lezione di questo perfetto college, dove viene raccomandato a tutti i bambini di essere sempre perfetti. Students of Hailsham are special. Yes. Keeping yourselves well, keeping yourselves healthy inside, is of paramount importance. E allora questo era Never Let Me Go, il regista del film è Mark Romanek, che avevo apprezzato e forse lo avrete apprezzato anche voi tanti anni fa ormai, con uno straordinario Robin Williams in un film che si intitolava One Hour Photo ed era un film davvero ben costruito. Ebbene, il film è stato presentato in Europa lo scorso 13 ottobre a Londra, in Italia lo potremo vedere dal 25 febbraio del prossimo anno, e questo è l'appuntamento per chi lo ha messo a punto nella sua agenda. Grazie Micaela, alla prossima settimana. Ciao Franco. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea, eccoci qua per parlare di cinema da vedere o rivedere sul proprio piccolo schermo. Lo facciamo come sempre cominciando con gli amici di Film TV. In questo caso lo vogliamo fare focalizzandoci su un personaggio, perché proprio questa settimana sono arrivati, è arrivata una celebrazione, una data, insomma, una ricorrenza commemorativa, quella dei 20 anni in cui abbiamo perso un grandissimo attore della commedia italiana come Ugo Tognazzi. Allora, 20 anni fa se ne andava Ugo Tognazzi, questa settimana le televisioni, visto che tutto è stato già detto su Ugo Tognazzi, noi non ci torniamo su, ma questa settimana, la settimana entrante per la precisione, le televisioni faranno davvero il diavolo a quattro per far vedere film editi e anche inediti, tra l'altro come scopriremo anche in diretta quasi con il Festival di Roma, che hanno avuto per protagonista il grande Ugo. E allora noi proprio di questo vogliamo parlare con gli amici della settimanale Film TV. Allora, Sara Sagrati, raccontaci un po' qual è il raccolto che hai fatto spigolando fra i palinsesti della prossima settimana sotto il nome appunto di Ugo Tognazzi. Ciao Franco, ciao a tutti. Questa è stata una settimana tognazziana, soprattutto col fatto che è iniziato il Festival Internazionale del Film di Roma giusto ieri, e nella giornata precedente, proprio il 27 ottobre, è stato proiettato un documentario in prima visione di Maria Sole Tognazzi, la figlia, dedicato al padre, che si intitola Ritratto di mio padre. Questo documentario verrà poi trasmesso in anteprima assoluta già questa domenica sulla 7 alle 13.55 con testimonianze inedite, filmati, interviste, davvero un messaggio accorato e una grande dichiarazione d'amore a questo grande attore. Subito dopo, sempre sulla 7, ci sarà anche alle 15.55 Dagobert, un film in costume del 1984, e una piccola chicca a mezzanotte 30 con I cadetti di Guascogna, che è proprio l'esordio cinematografico del grande Ugo. Ma gli omaggi, l'amore che vogliamo testimoniare al grande Ugo non finisce qui. Soprattutto segnaliamo al Festival del Cinema di Roma, c'è una bella iniziativa che sono pillole dei suoi film estratti di 2 minuti circa all'inizio di ogni film della selezione ufficiale del Festival. Tra questi titoli ci sarà Una moglie americana, Oggi, domani e dopodomani, Io la conoscevo bene, Controsesso, e anche La vita agra, di cui questa settimana, ci permettiamo di dirlo, su Film TV troverete la locandina in regalo con un bel messaggio che Gianluigi Rondi ci ha voluto regalare. E allora Sara, ricordiamo gli appuntamenti tutti sulla 7, tutti nella giornata di domenica 31 ottobre. Ugo Tognazzi, Ritratto di mio padre, in diretta fra virgolette dal Festival di Roma alle 13.55, Dagobert alle 15.55, I cadetti di Guascogna a mezzanotte e mezza. Questo è l'appuntamento della 7 con i film del grande Ugo Tognazzi. E a questo punto noi siamo arrivati alla terza traccia misteriosa del film da scoprire, del film da indovinare questa settimana, questo fine settimana, per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Ascoltiamo. È un idiota. Deve essere una cosa di famiglia. Anche i genitori saranno degli idioti. Lorenz, se avrai un figlio così, ti diseredo. E questo è il nostro ultimo tentativo di farvi vincere questo fantastico Blu-ray. La Rosa Purpurea, @radio24.it. Ricordatevi sempre di inserire anche il vostro indirizzo privato per agevolare l'eventuale spedizione in caso di vittoria. Se avete indovinato, bene, altrimenti possibilità non ce ne sono più. Però settimana prossima, come sempre, sveleremo di che film si tratta e anche quali sono i vincitori. Così come facciamo adesso con il film della scorsa settimana, che era questo. Ma io stamattina sono stato invitato da Pia per una colazione in giardino con la famiglia. Ti avrei anche portato, ma poi ho pensato, è la macelleria. strepitoso il personaggio di Paesina, la vecchietta di Non ci resta che piangere, come hanno indovinato molti di voi durante lo scorso fine settimana, grandissima affluenza a livello di numero di email per partecipare al nostro gioco. Anche qui abbiamo cercato di essere il più cattivi possibili, ma questa traccia qui poi alla fine ha dato veramente la soluzione. Certo, il capolavoro di Benigni e Troisi che ritorna in Blu-ray anche in questo caso e si fa guardare per il suo estremo, enorme divertimento. Io lo trovo uno dei film comici più comici degli ultimi 30 anni, del dopo Totò, ecco, diciamo così, davvero un film nel quale si comincia a ridere all'inizio e si finisce alla fine. Ma questo Blu-ray è molto di più perché ci sono anche contenuti speciali di grandissimo interesse e anche abbastanza inediti. Vero Claudio Pofi, che sei in collegamento con noi? Assolutamente, Franco. Ciao, un saluto agli amici in ascolto. Sì, è vero, l'opera del 1985 rivive veramente in alta definizione, il risultato è sicuramente gradevole su Blu-ray e comunque superiore al DVD, sicuramente migliore la resa per la parte video rispetto alla traccia audio ad alta risoluzione. Ci sono degli extra che sono già stati, erano già disponibili su DVD, ma segnalo su tutti un intervento nuovo ed esclusivo da parte di Roberto Benigni con ricordi del film e del compianto amico Massimo Troisi. Però attenzione, che è segnalata la presenza di una scena alternativa mai proiettata al cinema, però è riduttivo visto che si tratta in realtà di ben 40 minuti di montato inedito. Hanno vinto il Blu-ray di Non ci resta che piangere Andrea Ciangherotti di Firenze, Giampaolo Donelli di Montechiarugolo, provincia di Parma. Sono i due ascoltatori che riceveranno il Blu-ray a casa. Noi andiamo avanti e visto che siamo proprio nel weekend che immette alla festa di Halloween, che si voglia o non si voglia, è diventato un classico anche in Italia, abbiamo scelto film di zombie, così siamo anche in argomento e siamo coerenti. Cominciamo proprio con il film che si intitola Zombie. E l'equipaggio del battello, che fine ha fatto? Cos'è, dottore? Cos'è questa storia dei morti che tornano di nuovo in vita e che bisogna uccidere una seconda volta? Cosa diavolo c'è sotto? Voi conoscete il voodoo? Il voodoo? Via, non scherziamo. Sono 10 anni che navigo questi mari. Il voodoo è una superstizione. In realtà deriva dall'incontro di due religioni diverse. Quella cattolica, che è stata portata qui dai conquistadores spagnoli, e quella africana originale che gli schiavi negri si sono portati dietro. Qualsiasi cosa sia, i morti sono tornati a camminare. Un battello alla deriva entra nel porto di New York a bordo uno zombie che assale uno dei poliziotti che hanno avvicinato il natante. Le indagini porteranno a una lontana isola su cui i morti sono tornati a camminare e affamati di carne umana a causa di una maledizione voodoo. Doveva essere girato da Enzo G. Castellari, ma la mano passò a Lucio Fulci che nel 1979 realizzò Zombie 2, questo gore movie, un cult che fu la risposta allo zombie di Romero. L'edizione doppio DVD di Cecchi Gore di buona qualità video, accettabile la traccia audio in italiano dell'epoca, sono veramente tanti gli extra, tra i quali segnalo su tutti un lungo e proficuo incontro con il regista, interviste esclusive ai protagonisti e c'è addirittura la celebrazione americana del film del 2009. Grazie Claudio, appuntamento alla prossima settimana. A presto, risentirci. E appuntamento alla prossima settimana anche a tutti quelli che ci hanno ascoltato qui su Radio 24 alla Rosa Purpurea. Finisce qui la nostra ora di cinema. Settimana prossima, come sempre, il sabato alle 18, la domenica alle 15 per tutto il cinema che c'è. Un saluto da Franco D'Assisi.